New Wave e molta molta elettronica. Ricordiamo il contatto telefonico 0649 1750, sito internet anche per lo streaming è www.ondarossa.info. Ricordiamo la nostra campagna, il nostro crowdfunding atto a creare un radioabbonamento, 30.000 euro per 1.000 ascoltatori, è un abbonamento, è una campagna che va avanti sino a maggio e che ha trovato anche parecchi aderenti tra gli ascoltatori degli spazi personali, sia di Disorder e sia di Prove Tecniche di trasmissione, che va in onda ogni mercoledì intorno alle 21. Si va sul banner specifico, si clicca e si sceglie la modalità più adatta, oltre al crowdfunding, carta di credito, bonifico, ma anche passare qui in radio, che non è neanche da rifiutare a priori, perché è anche un modo per conoscerci. Allora, intanto si va a salutare Maya dalla Sardegna, Ernesto e Giuliana qui da Roma, li salutiamo, Doriana in quel di Taranto, Daniele della Elbon Records qui a Roma, Cristiano Bocci dalla Toscana, Nicola Locci anche lui dalla Sardegna, Nicola Locci come Stigmate e Hexagonal, lo ricordiamo. Allora andiamo un po' a ritirare fuori qualcosa di abbastanza datato, di un progetto al quale siamo e sono soprattutto particolarmente legato, perché fu protagonista di una serata a sottoscrizione per Radio Onda Rossa circa 3 anni fa, proprio nel febbraio del 2017. Trattasi degli Ataraxia, li ricorderete, che suonarono insieme ai Redivivi Giardino Violetto in quel del Forte Prenestino in una serata assolutamente magica. Ebbene, di loro abbiamo ritirato fuori un vecchio lavoro del 1991 autoprodotto che si chiamava Nosce de Ipsum. Con molto piacere ci andiamo a sentire Aeges Mortes, Tu e la Force du Silence. Wind es Wort auszusprechen. Nachher waren an der Wand und auf dem Boden die Spuren zu sehen. quindi ho voluto ricordare quella serata magica, se non erro 4 febbraio del 2017, in quel del Forte Prenestino, vennero questi Atalexia insieme a Giardino Violetto. È una bellissima serata che anche qualcuno di noi che sta all'ascolto, per esempio Giuliana ed Ernesto, si ricorderanno perfettamente. Intanto si sono aggiunti nel parterre altre persone dalla Val d'Aosta. Jean-Claude Berthaud, ormai affezionatissimo. Il maestro Eloquence Recycle di Recycle e H501L che ascolteremo più avanti. Enrico Cerrato di Petrolio, altro interessante progetto industrial in quel di Asti. Fulvio Biondo di Store Lodge, altro pezzo di storia della scena sperimentale qui romana. E ricordo naturalmente Lucia Cagliazza come Lupsi, del quale sappiamo che esiste del nuovo materiale che spero presto ascolteremo anche qui da queste frequenze. Saluto Lucia qui a Roma. Dunque, Atalexia, questo era un vecchio lavoro che uscì inizialmente nel lontano 1991. Uscì su cassetta e su album, i famosi formati in cassetta, in parte anche ritornati, ma fu stampato anche in supporto digitale dalla Twilight Records, etichetta argentina. L'album invece fu stampato anche dell'Energeia, l'Energeia che in qualche modo chiamiamo in causa attraverso la prossima cosa che ci andremo ad ascoltare. Mentre salutiamo Francesca Nicoli, Giovanni Pagliari, Riccardo Spaggiari e Vittorio Vandelli, gli attuali Atalexia, li ricordiamo, provenienti da Modena e dintorni, con queste atmosfere così neofolk, martial, tribali a tratti, come questa che sta andando sotto la mia voce in questo Noscete Ipsum. Le impressionanti doti vocali di Francesca. Spero che in streaming si senta bene. Credo di sì, fino a parte Rosetta di Spiritual Bat che mi dice connessione a tratti. Spero che agli altri vada meglio. Quindi dicevo che rimaniamo qui in Italia con un progetto che è tornato recentemente in auge. Trattasi dei napoletani Trees. Al loro attivo 4 lavori e sono tornati recentemente con proprio un ultimo album uscito nel marzo dello scorso anno che si chiama Epilogue. Realtà abbastanza sotterranea che si muove tra la dark wave di scuola tipicamente Cure, ma anche sprazzi di dream pop e shoegaze. Un quintetto che ha inciso in passato sia appunto per l'Energeia, che ho nominato anche nel caso degli Atalexia, attraverso l'Arc Records, altra realtà storica, e appunto recentemente con questa Vip Choyo Sounds Factory. Quindi andiamo a conoscere questi Trees, che peraltro suoneranno qui a Roma venerdì 21 febbraio al The Frag, una realtà molto interessante, peraltro vicina anche alla palestra Valerio Verbano che noi conosciamo molto bene. E in via delle Isole Cursolane a Monte Sacro, dunque. Bene, mi dicono che molti sentono bene, Maya, Nicola, eccetera. Allora, torniamo a questi Trees. Da Epilogue ci ascoltiamo l'iniziale Winter Tale e la terza traccia, Girls Love Poets. Thank you. Dunque un gruppo, questi Trees, ricordo, da Napoli, che mossero le prime gesta come una cover band chiamandosi Walking Trees, se non erro una cover band dei Cure. Poi fortunatamente, aggiungo io, decisero di fare del materiale proprio, cambiarono nome ed esordirono nel 97 con l'album omonimo. Ne fecero altri due, poi una lieve pausa che li portò, li ha portati a stampare questo Epilogue del 2019 con queste sonorità tipicamente dark wave, così arrotondate, malinconiche. Ricordo Trees in concerto al The Frag il 21 febbraio a Monte Sacro, ne parleremo anche la prossima settimana e chiaramente manderemo altri brani da questo Epilogue. Intanto salutiamo East at Wall dalle parti di Milano, a Roma Paolo, affezionato anche lui ormai. Giustissima l'osservazione di Nicola Locci, ci avevo fatto anch'io caso, la parte vocale esattamente di Paolo Daddio, a me personalmente ha ricordato Michael Stipe dei REM. Vado anche a ricordare il resto della band: Antonio Minucci sintetizzatori, Davide Fusco batteria, Francesco Candia chitarre, al basso Nino Candia, presumo il fratello, e appunto Paolo Daddio voce e testi. Napoli ha dato alla luce anche altri progetti interessanti, ricordiamo recentemente i Geometric Vision, sentiti qui appunto da Disorder. Ebbene, lasciamo i Trees, ma rimaniamo in Italia. Ci spostiamo leggermente più a nord, più vicino a noi, andiamo a Frosinone. E lo facciamo con The Spiritual Bat di Dario Passamonti e Rosetta Garri. Questo è Cruel Machine del 2011, esattamente il secondo lavoro che abbiamo cominciato a conoscere lunedì scorso. Anche Spiritual Bat, una realtà ormai consolidata, anche questo un pezzo di storia della scena gotica nel senso ampio del termine. Sta per partire Once Upon a Time e Tormented Body.